get a good feeling, yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao, siamo Pino e Lucilla ed oggi vogliamo porci e porvi una domanda. Ma secondo voi c'è la crisi della politica? Infatti è un po' di tempo che tra di noi ci chiediamo sempre più spesso quali spazi abbiamo di espressione e di reale democrazia. La risposta è che siamo scontente ed insofferenti delle vite che conduciamo. Ci siamo rese conto che gli spazi di aggregazione sono praticamente spariti. Sono rimasti quelli amicali, che seppur importantissimi, non sono configurabili come spazi sociali. Per noi diventa difficile impegnare energie anche per coltivare amicizie, perché quelle energie ci servono per sopravvivere ad una società che sempre meno ci piace e sempre più ci fagocita. Dal movimentismo di piazza che portava fuori le esigenze collettive, siamo passate all'immobilismo di fine millennio, che ci fa assistere ad una disgregazione dei valori della collettività, provocando un ritorno al privato e ad una ricerca di soluzioni individuali. Tra i due estremi c'è un abisso incolmabile. Assistere a questa evoluzione storica o involuzione addolora quelle come noi che hanno creduto e credono nella possibilità di cambiamento. Per noi il cambiamento è nel sociale e non nell'istituzione familiare, per cui non ci richiudiamo nella famiglia che oggi spera di produrre il cambiamento attraverso i figli. Molte di noi avevano creduto e sperato in una inversione di tendenza allorquando il cosiddetto centro-sinistra si insediò al governo. Invece è con profonda tristezza e rabbia che prendiamo atto che neanche i più elementari diritti costituzionali vengono garantiti da questo governo. Un esempio, l'articolo 11 della Costituzione recita: l'Italia ripudia la guerra. Ciò che non avevano fatto Andreotti e Craxi l'ha messo in atto D'Alema. Il compagno? Infatti siamo in guerra. Vogliamo parlare adesso dell'articolo 1 della Costituzione? E cioè la Repubblica Italiana si fonda sul lavoro. Quante disoccupate e disoccupati produce questa nazione? Quante sottooccupate e quanto lavoro nero esiste? È questo un fenomeno di proporzioni enormi. Di certo questo governo non ha contribuito alla riduzione di questo fenomeno, però possiamo dirvi cosa ha fatto per peggiorare la situazione. Ha creato i contratti di lavoro di solidarietà, interinali, part-time, socialmente utili. Ha creato, per chi ha il lavoro garantito, la concertazione, parola sempre più di moda tra sindacati e governi e che segna la fine della conflittualità tra queste due parti. Ma è proprio vero che non ci sono più conflitti di interessi? A farne le spese è sempre e comunque il lavoratore. Infatti, questo governo, che di sinistra ha ben poco, ma diventa sempre più sinistro, ha operato il miracolo italiano. Siamo in Europa. A quale prezzo, poco importa. Ma è bene che tutti sappiano che questo risanamento è passato sulla nostra pelle e nelle nostre tasche. Ma torniamo all'articolo 1. Di quale lavoro parliamo? Di quello che è un diritto o un privilegio? A noi tutto ciò dà l'idea di essere tornate indietro di 50 anni, quando con lo stipendio non arrivavi a fine mese. E di cosa potevi occuparti se non di arrivarci a quel cavolo di fine mese se il problema era solo tuo? È disperante dirlo, ma anche oggi il problema è solo tuo. Vogliamo parlare della spesa pubblica, per esempio quella sanitaria? La realtà è che proprio questo governo sta picconando lo Stato sociale, favorendone lo smantellamento. L'americanizzazione è sempre più imperante. Infatti, a chi importa oggi dei soggetti deboli? Pensando ad un soggetto disabile, cosa costa meno? L'inserimento a livello sociale nel mondo del lavoro investendo sulla sua cura o assegnargli una bella sedia a rotelle? Una cosa è certa, Questo stato di cose rende scontato pensare che una persona disabile non può essere sufficientemente produttiva. E allora è meglio una sedia a rotelle. In questa situazione come si può esprimere libertà di pensiero? Tutto diventa inevitabile, persino la guerra. Come si fa a costruire spazi culturali in questo contesto? Alcune di noi dicono bisogna resistere, ma se il patriarcato è morto, come hanno detto le donne della libreria di Milano, il suo fratello gemello ci sta facendo passare un brutto quarto d'ora. Questo disagio che noi viviamo quotidianamente, purtroppo lo riproduciamo in tutte le situazioni, anche all'interno dei nostri piccoli gruppi, dove non riusciamo più a produrre pensiero originale e progettualità di ampio respiro. Vorremmo terminare con una frase tratta dal libro Scum di Valérie Solanes. A tutte le donne che non hanno paura né delle responsabilità né delle emozioni sconvolgenti, non rimane che rovesciare il governo, eliminare il sistema monetario, istituire l'automazione completa e distruggere il sesso maschile. Ma in tutto questo si perde identità. Noi chi siamo? Dal libro della Eisenbach Lesbismo per tutti, dopo lo stacco musicale vi sveleremo cos'è una lesbica. Se ho ore sono troppo poche, provate voi a lavorare e troverete la differenza di lavorare e comandare e sentirete la differenza di lavorare e di comandare. O Mario Selva, se non la smetti di arrestare i lavoratori e noi faremo siete lesbiche? Rispondete allora a questo questionario per saperlo. Dopo il sesso, spesso mi sento, scegliete uno o più risposte, A, imbarazzata, B, colpevole, C, ansiosa di rimanere sola, D, vagamente insoddisfatta, E, pronta a trasferire alcune delle mie cose nell'appartamento della mia nuova conquista. Se scegliete una o tutte le risposte da A a D, tutto quello che possiamo dire con certezza è che siete nate e o cresciute negli Stati Uniti, molto probabilmente in una famiglia cattolica. Se avete risposto E, dobbiamo anche dirvelo? Siete lesbiche. Quando mi trovo in presenza di Uma Thurman, di solito mi sento A, calda e o fremente, B, leggermente confusa, C, affamata, D, tutto ciò di cui sopra, e altro. Questa è una domanda trabocchetto. Le risposte da A a D non provano niente tranne che siete vive. Se scegliete E, non ingannate nessuno, non ci sono altre risposte. Il mio colore preferito è, sceglietene uno o più. A, guscio d'uovo, B, malva, C, fucsia, D, cannella, E, nero, F, purpura. Tutte le risposte da A a E indicano che siete omosessuali, anche se non necessariamente lesbiche. Se invece avete scelto E e F, oppure soltanto F, o siete lesbiche o avete 14 anni, forse entrambe le cose. Spesso, quando vedo delle coppie che si baciano nei luoghi pubblici, sono presa da A. disgusto, B. invidia, C. rabbia, D. voglia di scoppiare a piangere. Trovare sgradevoli le esibizioni pubbliche di natura sessuale può essere risultato di una vita in cui vi sono stati negati simili mezzi di espressione personale, tranne che al buio, in quei locali carini, col buttafuori che si chiama Eros. Ma più probabilmente indica che credete nel fondamentale diritto umano di non dover guardare gli estranei che fanno sesso a meno che non paghiate per farlo. Quanto alle semplici dimostrazioni d'affetto, del tutto diverse da quelle che rasentano la pubblica fornicazione, beh, l'affetto sincero è una bellissima cosa e nel mondo d'oggi se ne stanno perdendo le tracce, anche se non posso parlare per i paesi scandinavi. Quelle tra voi che si sentissero disturbate dalla vista di semplici dimostrazioni d'affetto, siano esse tra omosessuali o tra eterosessuali, farebbero bene a riconoscere che un atteggiamento così esacerbato renderà solo più difficile trovare qualcuna, fatta apposta per voi, una volta che avrete rotto con la vostra fidanzata attuale. L'aggettivo che gli altri adoperano più spesso quando parlano di me è A. imbronciata, B. allegra, C. educata, D. cordiale, E. giudiziosa, F. espansiva, G. sarcastica, H. spensierata. Se eravate combattute tra le risposte A, C e G, siete molto probabilmente lesbiche. Se avete scelto qualcuna delle risposte rimanenti, in particolare H, non lo siete, sebbene ci piacerebbe che consideraste l'ipotesi di unirvi a noi. Ci rendiamo conto che chi di voi ha scelto H ha soltanto una minima possibilità di entrare a far parte della nostra grande famiglia. Tuttavia, restano numerose le opportunità per quelle che vorrebbero essere omosessuali uomini. Ogni volta che qualcuno nomina Madonna mi sento A. desiderosa di carne cruda, B. come una vergine, C. annoiata e o nauseata. Questa domanda è tradizionalmente stata una pietra angolare dell'identità sessuale. Purtroppo ormai è passato la data di scadenza. Quando affondo i denti in un delizioso e succoso pezzo di frutta mi sento A. soddisfatta, B. lasciva, C. felice, di stanca. Non c'è nessuna spiegazione per il modo in cui vi sentite. Chiaramente potremmo andare avanti all'infinito e fare domande indagatrici e semplicistiche, ma come certo avrete cominciato a sospettare, determinare l'identità sessuale è una faccenda di gran lunga più complessa di quanto potesse sembrare inizialmente, e noi cominciamo a stancarci di inventare domande. Fatevi coraggio comunque. Mamma mia, mi son stufa, ho de fa la filerina, ol carol poca la mattina, ol provim dove tal di. Mamma mia, mi son stufa, tutto il dì a fam dall'aspa, voglio andare in Bergamasca, in Bergamasca lavorare. Il mestiere della filanda, poverette quelle figlie che son dentro a lavorare, siam trattate stati come cani, come cani alla catena. Non è questa la maniera o di farci lavorar. Tutti mi dicono che sono nera e il fumo della caldera. Il mio amore me lo diceva, de fa nostro brut mestè. Tutti mi dicono che sono gialda nel filur della filanda. Quando poi sarò in campagna, miei colori ritornerà. Una presentazione particolare merita oggi la selezione musicale che vi proponiamo. Abbiamo scelto brani musicali che provengono dal patrimonio del canto di protesta sociale in Italia, un patrimonio ricchissimo, unico in Europa. I canti si dividono in inni, invettive e lamenti. Raccontano episodi, fatti storici, condizioni sociali. Erano e sono un modo di dirsi. Prendono origine dalla tradizione della cultura orale. Tutti i brani scelti sono cantati da mondine o da donne impegnate nella ricerca e nella raccolta di questa importantissima tradizione popolare. Donne impagabili come Giovanna Marini, Sandra Mantovani e la compianta Caterina Buono. Avete ascoltato, fino adesso, Se 8 ore sono troppe, sono troppo poche, cantata dalle mondine di Novellara, dalla raccolta di Giovanna Marini. Poi avete ascoltato Mamma mia, son stufa, che è cantata da Sandra Mantovani, e adesso ascolterete L'amarezza delle mondine, cantata da Giovanna Daffini, sempre dalla raccolta di Giovanna Marini. Quando saremo a Reggio Emilia, ha distribuito nel 98 lo splendido film di Dipa Mehta, che racconta la storia di due indiane, della loro presa di coscienza, della nascita del loro amore, della loro ribellione al sistema che le voleva poco più che schiave. Il titolo del film è Fire, ed è stato presentato in anteprima al Festival di Immaginaria l'anno scorso e che volentieri sono tornata a vedere anche al cinema. Ma forse la Lucky Red fa un po' di confusione intorno al lesbismo, tant'è vero che ha distribuito anche i discutibilissimi Butterfly Kiss e Creature del Cielo. Recentemente, e precisamente il 20 maggio scorso, proprio la Lucky Red ha invitato noi del coordinamento lesbiche romane con le compagne del centro femminista separatista ad una visione di prova. Il film in questione si intitola Il Pozzo, già tutto un programma, dell'australiana Samantha Lang. Tratto dal libro omonimo, che la stessa regista definisce suggestivo, anche se non ne capisco il motivo, il film racconta dell'incontro tra una donna matura e disabile con una giovanissima fuggita da un riformatorio. E già a questo punto vengono piantati i primi paletti della cosiddetta diversità. I sentimenti delle due protagoniste vengono rappresentati come borderline, attraverso comportamenti singolari, due disadattate che praticamente non comunicano tra di loro. Non c'è sessualità espressa, le due donne non fanno l'amore, né si toccano con sensualità, nessuna scena erotica. Ma allora, dov'è il lesbismo? Probabilmente, secondo la regista la Lucky Red, sta nell'incapacità di vivere sentimenti in senso positivo e costruttivo. Ancora una volta, ritroviamo lo stereotipo della lesbica brutta e cattiva e o incapace e opportunista. Ce ne saranno pure, chi può dirlo? Ma io che sono lesbica non ne conosco e continuo a pensare che lesbiche siano quelle che quantomeno incontrino fisicamente ed emotivamente altre donne. Insomma, quante volte vi sarà capitato di pensare di svuotare il forziere di una banca? Ma non per questo sarete mai incluse nella lista di pericolose ladre. Concludendo, brutto film, lento, angoscioso, con un omicidio e occultamento di cadaveri inspiegabili, con finale sin troppo scontato, una vera disgrazia a vederlo. Che, come dicono a Roma, non si può augurare manco ai cani. Vogliamo l'uguaglianza, vogliamo che sia giusta. Ai preti signoroni, noi gli daremo la frusta. E viva la Maria Goia, con il suo bel parlar. Se l'Italia la si unisce, la faremo ben tremar. Con la pelle dei preti faremo le scarpette, con la barba dei frati faremo le spazzette. E viva la Maria Goia, con il suo bel parlar. Se l'Italia la si unisce, la faremo ben tremar. Avete appena ascoltato Evviva la Maria Goia, cantata da Maddalena Amadei, sempre dalla raccolta di Giovanna Marini. Comunque, per la cronaca, Maria Goia è stata una delle prime donne sindacaliste. Vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento lesbico romano sugli 87 e 900 di Radio Onda Russa, all'interno del martedì femminista autogestito. Per contattarci potete telefonare allo 06 6864 201 ogni lunedì dalle 20 in poi, oppure potete inviare un fax. Gli appuntamenti. Vi ricordiamo che mercoledì 2 giugno alle ore 20:30 presso il CFS in via San Francesco di Sales 1B si terrà la proiezione del film Grove Hone in Style Knife, con traduzione in simultanea. Questo film ha vinto al Festival di Cinema Lesbico Immaginaria del 1998 il premio del miglior film. Pina, il tuo inglese sta decisamente migliorando e a questo punto io invece vi dico che mercoledì 9 giugno inizierà a Padova, organizzato da Arci Lesbica e da un coordinamento nazionale, crediamo, formatosi per l'occasione, il Festival Internazionale di Musica dal titolo Lesbiche Suonate. Il programma si svolgerà durante 5 giornate, concludendosi domenica 13 giugno. Per informazioni potete contattare il numero 0347 37 81714 o l'email arcibetta@hotmail.com oppure il sito www.women.it/lesuonate. Beh, Lucilla, finalmente hai capito come si fa a parlare meglio l'inglese. Bisogna che tu faccia un corso come lo sto facendo io da circa 6 mesi. Vabbè, torniamo agli appuntamenti, va? Mercoledì 2 giugno alle ore 18 verrà inaugurata la mostra personale di Loredana Baldin dal titolo Le ragioni dell'ombra. La mostra, che si terrà presso la Casa Internazionale della Donna in via San Francesco di Sales 1B, sarà aperta a pubblico misto dal 2 al 13 giugno. Per informazioni telefonare allo 06 6880 8560. Bene, allora io mi terrò alla larga dai corsi di inglese che sta facendo Pina, perché non mi sembra che sortiscano poi tutti questi risultati. Però vi dico che abbiamo ancora qualche notiziola. Ancora il 2 giugno, al Tempo Ritrovato, la Libreria delle Donne in via De Fieneroli 31D, alle ore 19, presentazione del libro Una ferma utopia sta per fiorire, di Anna Maria Zanetti. Ne parlano Daria Martelli, Lietta Tornabuoni e Marina Zancan. Il 2 giugno non sappiamo dove ci dovremo dividere, perché ci sono tutti sti appuntamenti. Vabbè. Il 9 giugno invece, dalle 19 alle 23, festa in libreria presso la Libreria delle Donne al Tempo Ritrovato in via De Fienaroli 31D. Raccogliamo libri sul femminismo degli anni 70, non reperibili nelle biblioteche, non ristampati, da mettere a disposizione delle studentesse che preparano tesi. Offriamo torta. Per informazioni, telefono fax 06 5817 724. Oh, ci sono tanti appuntamenti per il 2, però noi vi invitiamo naturalmente a quello che si terrà al Buon Pastore da noi al Centro Femminista Separatista, cioè la proiezione del film. Presso la Libreria delle Donne al Tempo Ritrovato c'è un'altra iniziativa ancora che si può, alla quale si può aderire tutti i giorni. Beh, in libreria si vendono acquarelli, gli acquarelli di Claire Amstead, per finanziare l'acquisto di scaffalature che consentano un miglior utilizzo dello spazio sala incontri, quello dove per esempio vengono presentati i libri. E ancora, Pina, ti ripasso la parola, perché credo che ci sia ancora un altro bel appuntamento. Io comunque devo ribadire il concetto che l'inglese di Lucilla non è migliore del mio, eh? Vabbè. Il 10 giugno alle 16 presso l'Hotel Bologna, incontro con la rete Lilith Nazionale, che presenterà il nuovo CD-ROM e l'applicativo. Infine vi facciamo un annuncio. Potete aderire, potete chiedere informazioni. L'annuncio è molto interessante, molto importante. Non andremo a votare. Dall'appello della Libera Università delle Donne di Milano, che propongono l'astensione dal voto europeo del 13 giugno se la guerra nei Balcani non cesserà prima. Per informazioni o adesioni, chiamare la Libreria delle Donne di Roma al Tempo Ritrovato, telefono 06 58 17 724. Il 24 di maggio avverrà un grande sciopero. Operanti si misero davanti e loro si sono gettate. se avete il coraggio. Il commissario con grande amarezza non obbedite alla pubblica sicurezza. Non vedete che questa è viltà? Se non vi alzate vi faccio restare. Le scioperanti si sono alzate e non è vero che questa è viltà. Son venuti e han fatto violenza trascinandoci con libertà. Il commissario con grande ironia disse agli altri: andate pur via. Si ferma solo la bravera Maria, che con noi la vogliamo portare. 13 giorni di malinconia fu terminato in grande allegria. Hanno lasciato la bravera Maria, l'abbiamo coperta di rose e di fior. Avete appena ascoltato Le Mondine contro la cavalleria, cantata da Cristina Rapisardi e il coro del Nuovo Canzoniere Milanese. Adesso passo la parola a Lucilla, la quale vi dovrà dire una ricetta che è una sua recente invenzione. Mi raccomando, seguite alla lettera, perché non dovete sbagliare niente. Io l'ho provata e vi assicuro che è stata una cosa eccezionale. Allora, questa sera, con un bel sottofondo musicale, che è For the Concubine, o non so bene come si legga in inglese, ma mi potrebbe correre in aiuto a questo punto naturalmente Pina, che conosce l'inglese meglio di me, ed è un pezzo jazz suonato al piano da Raquel Zeta e nel suo CD Room of One's Own. Bene, su questa musica, perché questa è la cosa importante, io vi dirò una ricetta rapida per due, per una seratina dove si spera di poter concludere. Quando voi chiamerete la vostra amica a casa, potrete intanto servire un piatto veloce che può dare delle buone premesse. Il piatto è würstel e patate al forno, semplice, rapido, soprattutto se avrete il microonde. Io ce l'ho da pochissimo tempo e sto sperimentando una serie di manicaretti. Prendete quattro belle patate rotonde, sbucciatele dopo averle lavate e tagliatele a dadini abbastanza sottili. Mettetele in un contenitore da microonde, salandole, condendole con dell'olio di oliva extravergine e aggiungendo un piccolo goccettino d'acqua, perché servirà a non farle schizzare, a farle cuocere meglio. Mettetele per i primi 5 minuti solo a microonde con una temperatura, con una potenza, meglio scusate, di 600 watt. Dopo i primi 5 minuti aggiungete la funzione crisp. Naturalmente il contenitore non deve essere di plastica, perché metterete la funzione crisp e lasciate cuocere ancora per altri 10 minuti. Quando avrà suonato il forno, naturalmente, voi metterete dentro, tagliati a pezzettini, i vostri würstel e rimettete nuovamente la funzione crisp per altri 5 minuti, badando bene di girare il contenuto nella terrina e di farla amalgamare bene, fatela rosolare. Dopodiché, quando sarà cotta, potrete dividere in due bei piatti e bere dell'ottima birra. Per questo la scelta la lascio a voi. Se aggiungete un poco di pepe macinato fresco appena avrete tolto dal forno le patate con i würstel, otterrete sicuramente una azione afrodisiaca. Buona serata. Thank you. basta, scusatemi, mi rimangio tutto quello che ho detto sulla ricetta di Lucilla, perché non è possibile che patate e wurstel siano una ricetta particolare. Infatti io pensavo che lei vi dovesse dare l'ultimo ritrovato, l'ultima sua ricetta, che era a base di salmone, di tartufi, quelli sì che sono afrodisiaci, non sto pepe buttato là per caso sulle patate. Per cui io mi rimangio quanto ho detto, non ho sperimentato questa ricetta e credo che mai la sperimenterò, perché i wurstel proprio non mi piacciono. Poi vogliamo l'eguaglianza. Ascoltato Noi vogliamo l'uguaglianza, cantata dalle mondine della cooperativa dei cappuccini di Vercelli. Adesso vi vorremmo presentare un altro pezzo musicale. Questa volta non è più preso dai canti tradizionali contadini, quello delle mondine per esempio che abbiamo ascoltato fino adesso, fino a questo momento, ma viene sempre da un certo modo di raccontarsi e che è appunto la tradizione orale e un certo modo di rappresentarsi. È una nostra amica carissima, di cui non vi diremo il nome, ma che voi sicuramente riconoscerete, che canta e suona la chitarra, che è stata in un gruppo musicale negli anni 70, che ha fatto nella seconda metà degli anni 70 e che è stata ha fatto spettacoli eccetera eccetera, e questo è un pezzo molto gradevole, molto carino, che a noi piace tantissimo e che vi regaliamo e che speriamo che anche la nostra amica sia all'ascolto e apprezzi a sua volta. Quando andava via la mia dentro a quel portone, mi sento un cane che aspetta e parla la padrona. Sento il campanaccio, ma rintrona dentro il cuore. La la la la, ecco finalmente, la vedo fra Midella e il professore. La la la la, già lo so, ma rincoglionirà le bacie e carezze, e dopo avergli dato un bacio lungo, grande come il mondo, io gli dirò te amo. Ogni giorno cambia, ogni giorno è una cosa nuova. La la la la, c'è chi giura che noi due insieme sicura che pure lei la pensava sta maniera, fino a quella sera che mi disse Agla non so che c'è, boh. Me ne sono andata col pianto dentro al cuore, e se mi fosse cascato il mondo addosso non sarei così come sto. Tutti i giorni fa sedia ad allungare, salvo al bar lo spazzino, fa il panino, aspettarla lì. Ma tra mance pensa, la vita è bella, può essere senza quella. Oh, sometimes I get a good feeling, yeah. Avete ascoltato È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, a cura del coordinamento Lesbiche Romane sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. I really do believe.